Ciao a tutti e a tutte, mi chiamo Paolo Pachino, sono andato in Siria del Nord, meglio conosciuta da tutti in Rojava, per 3 volte. E una volta mi sono recato nel territorio del Kurdistan turco. Diciamo che la mia scelta è maturata tra il 2014 e il 2016, dopo che la prima volta ero andato nel Kurdistan turco, proprio quando c'era la violentissima battaglia di Kobane, che tutti quanti noi abbiamo conosciuto, anche grazie al sacrificio di migliaia di martiri. È lì che mi sono avvicinato a quella che è, diciamo, la rivoluzione del nord della Siria, del Rojava. E prima mi sono recato in territorio del nord della Siria, nelle strutture civili, anche per vedere come erano strutturate, come erano auto-organizzate, per poi recarmi una seconda volta sempre in territorio del nord della Siria, ma questa volta unendomi alla YPG, vedendo che quello che succedeva lì nel nord della Siria, che quello che vedevamo noi da qui non era finzione, ma era realtà. Realmente i popoli del nord della Siria si stavano organizzando, si stavano autogestendo, combattendo nel frattempo una dura guerra contro lo Stato Islamico. È lì che ho deciso, diciamo, di unirmi all'OIEPG e di recarmi in Siria una seconda volta, ma questa volta vestendo, diciamo, la tuta militare e imbracciando una AK-47. Nel gennaio del 2019, esattamente era intorno al 4 gennaio, ci arriva questa comunicazione a me, a Davide, ad Eddie, a Jack e a Jacopo della richiesta da parte della Procura di Torino di sorveglianza speciale, perché noi ci eravamo recati in territorio nord della Siria, diciamo sostenendo la rivoluzione, anche perché non tutti noi abbiamo combattuto nell'EPG, ma Jacopo per esempio ha fatto parte della struttura civile. Quindi nel gennaio del 2019 ci è arrivata questa comunicazione con già la data fissata del processo, che si è svolto il 23 gennaio del 2018. All'inizio, quando è stata richiesta questa misura qui, si sono svolte tre udienze, perché all'inizio eravamo in 5 a questa richiesta di sorveglianza speciale, e poi subito dopo di noi è stata richiesta anche contro un compagno, sempre aveva fatto parte dell'IEPG, che vive a Cagliari, dalla procura di Cagliari è stata fatta la stessa richiesta. Quindi, dopo che per noi, che al Tribunale di Torino sono svolte le 3 udienze, nel giugno del 2019 la Procura di Torino ha deciso che Jack e Davide, la loro posizione è stata stracciata, non c'era motivazione di applicazione della misura cautelare. Invece per me, Eddie e Jacopo, la cosa era diversa, perché noi al nostro ritorno dalla Siria abbiamo commesso, diciamo, dei reati che, se vogliamo parlare, sono personalmente, per quanto mi riguarda me, il reato che avevo era che avevo partecipato ad un saluto davanti al carcere per Capodanno e avevo sparato dei fuochi d'artificio. Per Capodanno sparano tutti i fuochi d'artificio. Addirittura ancora per Ede Jacopo invece la colpa era stata di essere andati davanti a un locale e aver chiesto, diciamo, indietro gli stipendi che un compagno non riceveva da mesi. Quindi questa colpa qui, diciamo, di aver fatto questi due reati qui, primo per me e secondo per De Jacopo, era una motivazione in più per cui la nostra situazione doveva essere ancora, diciamo, ci devono essere indagini in corso per capire se le nostre competenze militari che avevamo appreso nel nord della Siria erano state utilizzate o potevano essere utilizzati commettendo dei reati qui in Italia. Diciamo, la motivazione per cui Davide e Jack, la posizione è stata stracciata e me e De Jacopo no, è stata proprio questa. Invece per il compagno di Cagliari la misura non è stata applicata e la procura di Cagliari ha deciso che non ci sono le motivazioni per applicare tale misura, anche perché l'OIEPG non è un'organizzazione terroristica, come aveva detto, diciamo, la procura di Cagliari, che aveva richiesto proprio la misura con una di queste motivazioni. Quindi al compagno di Cagliari non è stata applicata e la richiesta è stata rigettata. Beh, diciamo che se questa misura venisse data e passa la tesi della Procura di Torino, ad essere in pericolo non sarebbe solo la nostra libertà, ma anche la libertà di tutte quelle persone che ogni giorno portano avanti lotte, fanno parte di movimento, oppure sostengono le persone che hanno bisogno, oppure che magari sostengono tutte quelle persone che sono senza casa. Quindi diciamo ad essere in pericolo non è solo la nostra libertà, ma tutte quelle persone che in Italia sono migliaia, che fanno parte di movimenti, che portano avanti delle lotte sociali, e quindi in pericolo non c'è solo la nostra libertà, anche perché leggendo le carte come motivazioni, diciamo la nostra colpa è quello di definirci rivoluzionari, quindi non è non ci sono dei reati per cui noi abbiamo fatto, semplicemente l'aver detto e definirsi rivoluzionario, il sostenere la rivoluzione, il sostenere diciamo l'uguaglianza fra i popoli, l'essere antirazzisti, questi sono i motivi per cui la procura porta avanti la propria tesi. Quindi, visto che in Italia non siamo gli unici antirazzisti, non siamo gli unici che ci battiamo per l'uguaglianza fra popoli, e in futuro, se passasse questa tesi, potrebbe essere richiesta la sorveglianza speciale per molte altre persone che quotidianamente nel loro piccolo cercano di portare avanti delle istanze per l'uguaglianza e anche per i diritti dei lavoratori, visto che De Jacopo, diciamo, la loro colpa è quella di essere andati avanti un locale e sostenere, di richiedere. Come dire, di richiedere gli stipendi indietro. Quindi chiunque porta avanti anche delle lotte nell'ambito lavorativo sarebbe in pericolo se questa tesi passasse. Quindi diciamo l'ultima udienza poi si è svolta il 16 dicembre, è il tribunale, la sezione delle misure preventive di Torino. Il Tribunale di Torino si era resa massimo 90 giorni per decidere. Questi 90 giorni scadono proprio oggi. Qualche giorno fa ho sentito anche l'avvocato per capire se ci potevano essere dei cambi nel cambiamento di giorno, quando ci dovrò far sapere, diciamo, se sarà dato o meno la sorveglianza speciale. Anche nonostante tutta l'emergenza sanitaria che c'è in Italia, comunque la decisione arriverà, dovrebbe arrivare entro oggi, perché proprio oggi scadono i 90 giorni, e poi ovviamente capiremo come muoverci. Quello che abbiamo detto anche con un comunicato che è uscito qualche giorno fa è quello di tenere ovviamente l'attenzione alta e di lanciare subito una mobilitazione nel web in caso questa tesi dovesse passare, anche perché come dire, è impossibile poter scendere in piazza e fare qualsiasi manifestazione pubblica in caso questa tesi passasse, vista l'emergenza sanitaria e il divieto di assembramento, di uscire, proprio per evitare che questo virus si sparga ancora di più. Quindi vediamo se oggi arriverà questa sentenza. Speriamo che sappiamo la decisione, anche perché comunque è stata sempre rinviata, anche così non è bello vivere più di un anno e sapere o meno se in futuro la nostra libertà sarà limitata o meno. Quindi spero ovviamente questa decisione arriva oggi e poi sapremo come muoverci. Un grazie a tutti voi e grazie per avermi dato la possibilità di spiegare come la situazione sul nostro caso e sulla sorveglianza speciale richiesta per chi è andato a sostenere la rivoluzione confederale nel nord della Siria e che ha combattuto contro l'ISIS. Ciao a tutti e tutte. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente La migliore.